Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È l'eclettica di mezzo quella che si sta aprendo adesso sulle frequenze di Rock FM, quella del mercoledì, dato che è presente sulle frequenze di Rock FM da lunedì al venerdì fra le 19 e le 20. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni, in vostra compagnia per un'ora di musica, di cinema e di parole. L'indirizzo di mail è giulio@radiorockfm.com, a parte il sito radiorockfm.com esiste anche il nostro spazio myspace.com/eclettica. Waldo Jeffers era al limite. Era ormai metà agosto, il che significa che era separato da Marcia da più di 2 mesi. 2 mesi. E da mostrare non aveva altro che 3 lettere spiegazzate e 2 telefonate interurbane molto care. Certo, quando la scuola era finita e lei era tornata nel Wisconsin e lui a Locust, Pennsylvania, lei aveva giurato di mantenere una certa fedeltà. Di tanto in tanto sarebbe uscita con qualcun altro, ma solo per divertirsi un po'. Sarebbe rimasta fedele. Ma ultimamente Waldo aveva cominciato a preoccuparsi. Di notte aveva problemi a prendere sonno. E quando dormiva faceva sogni tremendi. Passava la notte sveglio, girandosi di qua e di là, sotto le coperte. Le lacrime gli riempivano gli occhi, mentre immaginava Marcia, i suoi giuramenti vinti dall'alcol e dalla dolce consolazione di qualche Neanderthal, finché non si sarebbe arresa, definitivamente, alle carezze dell'oblio sessuale. Era più di quanto la mente umana riuscisse a sopportare. Le visioni dell'infedeltà di Marcia lo perseguitavano. Di giorno le fantasie dell'abbandono sessuale invadevano i suoi pensieri, ma quello che gli dava più fastidio era che non avrebbero compreso che tipo era lei veramente. Solo lui, Waldo, poteva capirlo. Lui aveva intuito ogni anfratto e ogni angolo della sua psiche. Lui l'aveva fatta sorridere, lei aveva bisogno di lui e lui non c'era. Ah. L'idea gli venne il giovedì, prima che partisse la parata in costume. Aveva appena finito di tagliare l'erba e di sistemare il giardino degli Edison per $1.50 e poi controllò la cassetta della posta per vedere se c'era almeno una parola da parte di Marcia. Non c'era che il volantino della Amalgamated Aluminium Company che cercava di indagare se gli servivano dei tendoni. Per lo meno si interessavano al punto da scrivere. Era una ditta di New York. Si poteva arrivare in qualsiasi posto con la posta. Poi ebbe l'idea. Non aveva soldi abbastanza per andare fin nel Wisconsin nei modi convenzionali, è vero. Ma perché non imbucare se stesso? Era assurdamente semplice. Si sarebbe inviato come un pacco postale espresso. Il giorno dopo Waldo andò al supermercato per acquistare l'occorrente. Comprò nastro adesivo da pacchi, una pinzatrice e una scatola di cartone di medie dimensioni, perfetta per una persona della sua corporatura. Valutò che, con un minimo di accorgimenti, poteva viaggiare abbastanza comodamente. Qualche buchetto per far entrare l'aria, dell'acqua e qualche spuntino, e probabilmente sarebbe stato come partire in classe turistica. Il venerdì pomeriggio Waldo era pronto. Si era impacchettato con cura e l'ufficio postale aveva detto che qualcuno sarebbe passato a prenderlo alle 3. Sul pacco aveva messo la scritta «Fragile», e mentre si rannicchiava adagiandosi sulla gomma piuma che aveva previdentemente inserito, provò a immaginare lo sguardo sorpreso e felice sul viso di Marcia quando, aperta la porta, visto il pacco e lasciata la mancia al postino, avrebbe aperto il tutto e si sarebbe trovata il suo Waldo in carne ed ossa. L'avrebbe baciato e poi forse avrebbero potuto vedere un film, se solo ci avesse pensato prima. Ad un tratto, mani poco attente afferrarono il pacco e si trovò a volare. Atterrò con un tonfo sordo dentro un camion e partì. Questo era l'incipit di The Gift di Lou Reed. To come down on you, but you need to start getting your life together. We're grown-ups now. Yeah. You know what I mean? I know, you're right. And if you're gonna stay here, things are gonna be different from now on. No more naked stuff. Well, it felt natural to be naked. I don't care. Okay. I do not care. Clean up after yourself, watch the noise, try to help out around the house, please. It's not too much to ask. No. Chasing anyone looking out my door, my little bit of country love. And if you don't mind me getting out of line, can you tell me how the stars shine looking out my door, my little bit of country love. Oh, if your feet aren't getting in the way, can you tell me why you'd wanna stay? I'm one and done, my little bit of country love. Eclettica si è aperta con Amina, il quartetto islandese che si presenta come quartetto che tipicamente accompagna i Sigur Rós, ma che, come abbiamo appena avuto modo di verificare, si sta cercando di muovere con le proprie gambe. Sex Faldur, il titolo del pezzo che ha aperto Eclettica quest'oggi. Poi abbiamo proseguito invece con una novità che, pur essendo l'artista in questione statunitense della Pennsylvania, è uscito per il momento solo in Inghilterra, disco che uscirà invece negli Stati Uniti, sua terra natale, in autunno. È il secondo album intitolato Blink of a Nihilist da parte di BC Camp Light, che già ci eravamo ascoltati in Eclettica anche con il suo disco d'esordio Hide Runaway, però disco quello d'esordio che sì, aveva incuriosito, ma non più di tanto. Questo secondo invece è un po' più interessante, quindi magari al di là del singolo passaggio per l'onore di cronaca probabilmente ritornerà nelle playlist di Eclettica, e sapete che anche voi avete sempre il modo per poterle influenzare via mail o via MySpace. Lord, I've Been on Fire è il titolo del pezzo che ci siamo ascoltati, per lasciare ora invece lo spazio agli inglesi Dragons con Condition. To our hearts, beat goes on. worship the soul. Marsha Bronson aveva appena finito di sistemarsi i capelli. Era stato un weekend molto duro. Doveva ricordarsi di non bere in quel modo. Bill era stato gentile con lei, però. Dopo che avevano finito, Bill aveva detto che la rispettava ancora e che, dopo tutto, era il modo in cui andavano le cose. E anche se no, non l'amava, provava molto affetto per lei. E dopo tutto erano adulti. Ah, quante cose Bill poteva insegnare a Waldo. Ma sembrava fossero passati già tanti anni. Sheila Klein, la sua migliore amica, entrò in cucina attraverso la porta della veranda. «Oddio, è proprio tremendo fuori!» «So che vuoi dire, mi sento tutta sfasata!» Marsha si strinse la cintura dell'accappatoio di cotone con i bordi di seta. Sheila sfiorò dei grani di sale sul tavolo di cucina, si leccò il dito e fece una smorfia. «Dovrei prendere certe pillole di sale, ma...» arricciò il naso. «Mi fanno venire il vomito!» Marsha cominciò a darsi dei colpetti sotto il mento, un esercizio per il viso che aveva visto in televisione. Dio, non parlarne nemmeno. Si alzò dalla tavola e andò verso il lavandino, dove prese una confezione di vitamine rosa e azzurre. Ne vuoi una? Dovrebbero essere meglio di una bistecca. Poi provò a toccarsi le ginocchia. Credo che non berrò mai più un daiquiri. Rinunciò e si sedette, questa volta più vicino al tavolino dove era appoggiato il telefono. «Forse Bill chiamerà», disse in risposta allo sguardo di Sheila. Sheila si stava mordicchiando una pellicina. «Dopo la scorsa notte, forse faresti meglio a chiudere con lui». «Capisco che vuoi dire. Dio mio, era proprio come un polipo, mani dappertutto», disse alzando le braccia quasi in difesa. «È che dopo un po' ti stanchi di resistergli, sai? E dopo tutto venerdì e sabato con lui non avevo fatto proprio niente, e così un po' glielo dovevo». «Sai che intendo». Cominciò a grattarsi. Sheila stava ridacchiando, la bocca coperta dalla mano. «Ti dirò, anch'io mi sentivo proprio così, anzi, dopo un po', e qui si piegò in avanti con un sussurro, lo volevo». E cominciò a ridere forte. Fu a questo punto che il signor Jameson, dell'ufficio postale Clarence Darrow, suonò alla porta della villetta quadrata, decorata a stucchi. Quando Marsha Bronson aprì la porta, lui l'aiutò a portare dentro il pacco, fece firmare i suoi moduli verdi e gialli e se ne andò con una mancia di 15 centesimi che Marsha aveva preso dal piccolo borsellino beige della mamma dello studio. «Che sarà secondo te?» chiese Sheila. Marsha se ne stava in piedi con le braccia intrecciate dietro la schiena, fissava la scatola di cartone marrone poggiata in mezzo al salotto. «Non lo so». Dentro al cartone, Waldo fremeva di eccitazione mentre ascoltava le voci attutite. Sheila fece scorrere l'unghia lungo il nastro di scotch che passava per il centro della scatola. «Perché non guardi l'indirizzo del mittente? Così vedi da chi arriva». Waldo sentiva battere il suo cuore. Sentiva le vibrazioni dei passi, fra non molto. Marsha girò intorno alla scatola e lesse l'etichetta scarabocchiata. «Dio! Viene da Waldo! Quel coglione!» disse Sheila. Waldo tremava di impazienza. «Beh, perché non aprirlo?» disse Sheila, ed entrambe provarono a sollevarne un lembo. «Oh!» esclamò Marsha seccata. «Deve averlo inchiodato!» Provarono a strappare di nuovo. «Dio mio, ci vuole un trapano per aprire questa cosa!» Tirarono ancora una volta. «Così non si riesce!» Entrambe se ne stavano in piedi, col fiatone. «Perché non prendi un paio di forbici?» domandò Sheila. Marsha corse in cucina, ma non riuscì a trovare altro che una forbicina da unghie. Poi si ricordò che suo padre teneva degli attrezzi in cantina. Corse giù per le scale e tornò con un grande tagliacarte in mano. «Non ho trovato niente di meglio». Le mancava il fiato. «Tieni, fallo tu, sto per schiattare». Si gettò sull'enorme divano lanuginoso sbuffando rumorosamente. Sheila provò a fare un taglio netto tra lo scotch e l'orlo del cartone, ma la lama era troppo spessa e la fessura era troppo stretta. «Maledizione!» esclamò esasperata. Poi, sorridendo, aggiunse «Ho un'idea!» «Quale?» chiese Marcia. «Sta a guardare!» disse Sheila, toccandosi la fronte con un dito. Dentro allo scatolone, Waldo era talmente eccitato che non riusciva quasi a respirare. La pelle gli formicolava per il calore e si sentiva battere il cuore in gola. Fra non molto. Sheila si alzò sulla punta dei piedi e camminò intorno alla scatola. Poi si inginocchiò, prese il taglialamiere con entrambe le mani, fece un respiro profondo e sprofondò la lunga lama al centro del pacco, attraverso lo scotch, attraverso il cartone, attraverso l'imbottitura e attraverso il centro della testa di Waldo Jeffers, che si squarciò lieve fra archi ritmici di color rosso che pulsavano dolcemente nel sole del mattino. Questo era ancora The Gift di Lou Reed. fill-in for the Abali school. No, no, no. Not this time. What? No, no, I'm talking to Lance Armstrong. He's trying to break away from the pack. I got him. Will you quit dicking around with your little huffy bike and listen to me?